E abbiamo al telefono una redattrice di questa radio che ieri ha partecipato all'assemblea e che inizierà insomma ad aiutarci in questa ricostruzione della discussione di ieri. Pronto, ci senti? Sì, mi sento benissimo. Buongiorno a te, a tutte e a tutti gli ascoltatori, alle ascoltatrici. Allora, ieri c'è stata questa assemblea al Cinema Palazzo, un'assemblea cittadina che preparava per la preparazione appunto della manifestazione contro la chiusura dei CIE e del CIE di Ponte Galeria. Per onestà devo dire che io non sono rimasta fino alla fine dell'assemblea, per cui racconterò quello che ho visto e sentito fino a quando sono stata. Dopodiché, se ci sono stati interventi diciamo fondamentali che io mi sono persa, chiedo scusa, ma non li ho sentiti. Io ho visto i primi 5 interventi. L'assemblea è stata aperta da un attivista del Cinema Palazzo che ha detto appunto che bisognava, che era ora di dare una risposta forte a tutto quello che sta succedendo in Italia con tutte le leggi repressive, sia contro le leggi fatte contro i detenuti e le detenute, sia perché bisogna dare una spallata, diciamo, non sto ripetendo le parole, per l'abolizione della Fini Giovanardi e chiaramente per tutte le leggi che regolamentano e peggiorano la vita degli immigranti e delle immigrantesse presenti sul territorio nazionale, che vengono qui per migliorare la propria condizione di vita e si ritrovano assolutamente in un baratro tra burocrazia e leggi liberticide. E dopodiché è stato detto che il corteo partirà dal Parco Leonardo e vuole assolutamente andare a terminare davanti al CIE di Ponte Galeria e che non saranno, diciamo, ammesse deroghe, non vogliono assolutamente contrattare un percorso diverso, soprattutto per quanto riguarda l'arrivo. E poi sono cominciati gli interventi sono stati aperti da due compagni, un compagno e una compagna del coordinamento di lotta per la casa, dei movimenti del diritto all'abitare, che hanno raccontato la loro esperienza. Uno di loro era stato appunto raccontato che cosa significa non soltanto per uno straniero senza documenti o con documenti vivere e quindi lottare per i propri diritti. Se fanno parte di un coordinamento per il diritto alla casa, è chiaro che insomma sono partecipanti attivi di un percorso di lotta, ma raccontava l'esperienza del CARA di Mineo, dove lui era appunto quel che lui aveva cercato di approfondire, dicendo appunto quanti soldi ci stiano in mezzo, come non sia assolutamente un'accoglienza, ma più che altro una maniera differente di usare i fondi che vengono dati, perché vengono dati dei soldi, anche tanti, per l'accoglienza degli stranieri o delle straniere in attesa di permesso umanitario o in attesa dello status di rifugiato. E poi insomma con tutto quello che è stato che abbiamo visto e sentito dalle cronache di media e giornali, con tutti i problemi e i trattamenti assolutamente ineguali e non rispettosi dei diritti fondamentali degli esseri umani. E ha raccontato anche il fatto che quando appunto quelli che erano usciti fuori dal CARA di Mineo sono arrivati nella città di Palagonia non c'è stato un impatto negativo, sfatando appunto il mito che gli immigrati ogni volta che arrivano in forma organizzata per perorare e lottare per i propri diritti si trovano sempre gli aborigeni locali contro. Naturalmente è stato fatto notare anche sempre da chi parlava che Palagonia è uno dei pochi paesi in Sicilia che non ha nessun tipo di relazione economica col CARA e quindi gli abitanti di questo paese non hanno voluto neanche l'amministrazione, cioè è stato anche un ragionamento dell'amministrazione di Palagonia che non ha voluto fare accordi col CARA, quindi non hanno scambi economici e quindi non hanno da difendere niente. Questa cosa ha fatto sì che ci siano state appunto delle buone esperienze. Dopodiché un'altra compagna ha raccontato dell'estrema e anche della abbastanza paurosa, questa questo aggettivo lo faccio io, lo metto io, somiglianza delle leggi contro l'immigrazione, per esempio, che ci sono nello Stato di Israele, che diciamo non differiscono molto dalle nostre, e che quindi, facendo un paragone sulla condizione dell'immigrato che deve, tra virgolette, regolarizzarsi, che non si trova, diciamo, bene da nessuna parte, non ci sono all'interno del panorama della cosiddetta civiltà occidentale, ammesso che esista, però insomma così loro si definiscono, delle organizzazioni, degli stati che favoriscono in maniera, diciamo, esplicita l'immigrazione. Certo, si potrebbe aprire un dibattito e chiedere dove preferisci sbarcare, in Svezia o in Italia, però insomma questi sono altri ordini di discorso, anche altri ordini di riflessione. E quindi è stato raccontato la difficoltà, ma anche la forza di volere assolutamente essere interni a un percorso di lotta, che lotta per i diritti, e quindi anche per i diritti degli immigranti e delle immigrantesse, che sono, diciamo, una grossissima componente delle occupazioni abitative a Roma, insieme insomma a noi italiani aborigeni. Io non sono un'occupante, ma insomma, per definizione, se loro sono immigrati, io sono un'aborigena. Poi c'è stato un altro intervento di una persona afghana che raccontava come appunto essere portati in Italia, perché poi non dobbiamo dimenticare, cosa che è stata anche ricordata, che molto spesso, a secondo di dove arrivi, chi ti porta, quando c'è una organizzazione, scusate, quando c'è un'organizzazione insomma che ti porta, chiaramente dietro pagamento, lo sfruttamento anche del viaggio, che dice di portarti in un posto e poi ti porta in un altro, come accade quando si ha la fortuna di parlare, di ascoltare dalla viva voce di chi ce lo racconta il viaggio di approdo sul territorio italiano. Il problema è che moltissime persone che arrivano non vogliono assolutamente risiedere in Italia, e allora cosa fanno? Danno un nome falso per evitare che, secondo le leggi dell'accoglienza che l'Italia insomma decide, che il governo italiano decide di seguire, se loro sono venuti in Italia poi dovrebbero chiedere l'asilo politico in Italia, e se chiedi l'asilo politico in Italia o lo status di profugo, insomma qualcosa di diverso dalla condizione della persona straniera che viene in Italia per lavorare, poi non possono più allontanarsi dal territorio italiano. E quindi che cosa succede? Che magari io arrivo, sono una persona di un paese extraeuropeo, do un nome falso perché a quel nome falso voglio preservare il diritto di potermene andare dall'Italia, perché non è la mia meta finale, l'Italia si trova in mezzo al mio percorso, ma io voglio andare in Francia, in Germania, in Olanda, ovunque, ma non voglio permanere in questo territorio. Questa cosa poi quando viene scoperta viene, diciamo, considerata appunto un reato, e quindi queste persone si ritrovano nei CIE. Ma quando chiedono lo status di rifugiato hanno già una denuncia per falsa dichiarazione, e quindi diventa una situazione complessa, complicata e difficilmente districabile se una persona è da sola, se una persona non ha un supporto esterno, ed è difficile che una persona che arrivi in Italia, in un paese dove non conosce nessuno, abbia un supporto valido. Non che non esistano assolutamente, cioè esistono tutti gli attivisti, le attiviste, gli avvocati, le avvocatesse, però per loro come individui è una cosa, diciamo, è un terno all'otto incontrarli, trovarli. Dopodiché tutto quello che noi raccontiamo ogni giorno ci dimostra che per fortuna questi incontri esistono, ma non risolvono le situazioni di tutti e tutti. Tra l'altro, appunto, è una cosa su cui dovremmo sempre riflettere, perché quando si parla di diritto al movimento si intende dire che bisogna anche potersene andare via da questo paese, rimanerci legalmente, non essere considerati criminali se uno permane in Italia, ma non essere neanche costretti a rimanerci per un giochetto legislativo abbastanza poco rispettoso dei diritti umani. Dopodiché ci sono stati altri due interventi, uno di, non ricordo in questo momento il nome, di una persona che ci, di un compagno che ci parlava della carta di Lampedusa, insomma, dove ha raccontato queste persone che sono andate lì, queste attiviste contro appunto queste leggi che sono comunque considerate all'unanimità delle leggi liberticide e soprattutto leggi fatte per poter costruire e finanziare luoghi di detenzione, e ha, diciamo, illustrato il tentativo della carta di Lampedusa. E dopodiché c'è stato un altro intervento di un attivista di un collettivo di Roma Sud, però diciamo più o meno quello che ho ascoltato è quello che ti ho raccontato. Quindi la interventi, partecipazione, diciamo, era ampia. Il Teatro del Cinema Palazzo era pieno, c'era un grande andirivieni di persone, e quindi insomma penso che la partecipazione è stata buona, quindi evidentemente questa chiamata ha sortito l'effetto che chi l'ha fatta pensava di... Quindi insomma si interviene, gli interventi che ci ha raccontato sono soprattutto sui contenuti, ma si è parlato anche di più dell'organizzazione in senso più stretto, o della partecipazione nazionale a questa giornata, o no? E finché ci sono stata io, no, ma questo non significa che non ne abbiano parlati dopo, per questo ho fatto la premessa che io sono stata lì fino a un certo punto, poi sono andata via, quindi non posso, cioè la mia descrizione non è esaustiva di questa assemblea cittadina. Parleremo anche con altri partecipanti all'assemblea, sì, così da dare insomma un quadro che tu hai già abbastanza approfondito, insomma. Non so se vuoi aggiungere qualcos'altro sull'assemblea. Ma no, diciamo, se mi fai la domanda sull'organizzazione proprio della giornata, è stato ribadito fortemente che non, che evidentemente chi ha indetto questa manifestazione non intende assolutamente contrattare sulla destinazione finale, cioè davanti al CIE di Ponte Galeria e sul percorso. Cioè, è stato detto a chiare lettere che non verranno accettati assolutamente percorsi alternativi che vedano appunto escluso il CIE. Sì, che non accetteranno questa cosa. Dopodiché c'era tantissima altra gente che magari è intervenuta, ma io non ho parlato con altri compagni e compagne per farmela raccontare. Finché quello che ho visto io, insomma, è quello che ho cercato di riassumere. E noi ti ringraziamo moltissimo per questo contributo. Bene, sono io che ringrazio voi e buona giornata a tutti. Altrettanto, ciao.